just found it. It's your time. C'è chi ha iniziato il primo giorno di scuola qualche giorno fa, anzi ieri, quando è ieri il primo giorno di scuola. Oggi ufficialmente noi iniziamo gli appuntamenti in radio. Anche se poi sono stato ospite ieri di Santi Genovese nel classico appuntamento dello sport, abbiamo parlato di cose importanti, anche oggi staremo insieme per ben due ore sino alle 17. Parte quindi la puntata zero del 2013 di On The Road. E come primo giorno, and now your favorite DJ. Puntuale, dai. Solito sono sempre puntuale nel ritardo, oggi invece puntualissimo. Primo disco è un flashback. Flashback. Di oggi un classico, non abbiamo perso le buone abitudini, quelle di regalarvi la musica più bella. CRM Pirelli, ora vi date con voi quindi sino alle 17. Parte ufficialmente On The Road oggi che è il martedì. Quanto abbiamo oggi? Mamma mia, ho perso il conto, poi vi faccio sapere. Eccolo qua, martedì 17 settembre, ufficialmente dicevo insieme per le prossime due orette. Ho adesso un attimo di pausa e poi giusto il tempo di rimettere in ordine un po' tutto, soprattutto le idee, e poi partiremo ancora insieme con la buona musica. On The Road. Queste luci, tutte queste voci, tutti questi amici, tu dove sei? Tutto questo tempo pieno di frammenti e di qualche incontro, e tu

I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me che questo è un po' il tormentone del momento, no? Wake me up, Avicii. Avicii, stavo guardando un po' la foto di Gianna Nannini, che ha regalato questa ennesima provocazione spogliandosi, l'ultima tintarella di questa estate 2013 a Formentera. La cantante opta per un total nude, secondando un po' la sua passione naturista, lasciandosi paparazzare dai fotografi. Non appena visto i fotografi, anzi si è girata mostrando un po' tutta la sua proprietà. Dico, non è che sia bellissima da vedere, però ognuno fa quello che vuole, quello che gli pare. Lei lo ha fatto a Formentera, l'isla preferita dai nudisti, i timidi. Quindi sono avvisati, sappiate che se andate da quelle parti potete incappare in un nudo. Io credo che lei faccia meglio la musica piuttosto che il nudo. Eccola qua con il nuovo singolo, si chiama semplicemente Scegli Me. Se non sai di che morte morire, scegli me, scegli me. E chissà dove andiamo a finire, scegli me, scegli me. Io lo so che te ne vai, non si vince senza perderci. Forse capirai. Non sai com'è bello impazzire. Scegli me, scegli me. Se lo sai e non riesci a dormire, scegli me, scegli me. Il mio bacio è come il rock, avvelena l'esistenza. Poi dopo che hanno visto le foto, dico, sarebbe un po' difficile sceglierti, cara mia. Gianna Nannini, nuovo singolo Scegli Me, 15:25, quindi diciamo che ufficialmente quasi la prima mezz'oretta ce la siamo papata. Mezz'oretta che serve per rodare. Perché abbiamo riniziato da poco, un po' come la scuola, no? Primi giorni di scuola, emozionante, si conoscono nuovi amici, specialmente se hai cambiato istituto, se magari dalle medie vai alle superiori, e quindi è giusto così. Conosci nuova gente, fai nuove amicizie, è quello che ci prefiggiamo anche noi, di conoscere nuova gente. Allora fatevi sentire, crmpradio.it. Intanto un altro disco nuovissimo, si chiama Skirt, questo è il nuovo di Kylie Minogue. Di parlare anche della Concordia, adesso è dritta, tutto è andato bene, ci sono gli applausi, l'operazione è riuscita al giglio, Gabrielli ha dato l'annuncio tra applausi alle 4 del mattino, qualche ora di differenza causa una tromba d'aria, avverse condizioni meteo, però poi tutto è andato bene. Nel lato sommerso spunta un misterioso graffio, poi naturalmente adesso tutto in mano ai responsabili, che vedranno un po' cosa succederà adesso. Dove andrà questo mostro del mare? Dove verrà smantellato? C'era l'ipotesi di Palermo, ma credo che non si può fa. CRM On The Road Flashback. Che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli, noi no, noi che non siamo le stelle, nemmeno le donne, nemmeno quelle più belle. Le commesse dei negozi del centro, stelle vivono a mezze giornate. No, che non sono le fate. Noi ladri di mille lire, cercando il modo per non morire, per non pagare le tasse, per far passare la notte. Ogni tanto parliamo d'amore, magari fuori c'è il sole, o che magari piove. Poi facciamo le fusa, proprio come dei gatti, e come i gatti dentro i giorni e le notti. Noi ci incontriamo e ci guardiamo negli occhi, e poi facciamo l'amore. Sì, sì, facciamo l'amore. E ogni tanto ci facciamo del male, e ogni tanto è normale. Basta non farsi mai prendere in giro, o almeno non farsi portare lontano. Vedi che bella la vita, ma basta andare più piano. Magari dimmi come vivono gli angeli, dimmi le fate, o se le hai mai incontrate. Mezz'ora ve lo regaliamo un disco che andiamo a ripescare indietro nel tempo sotto forma di flashback, in questo caso ospite Luca Garboni. Questo ci stiamo sbagliando, ragazzi. 15:33, stavo leggendo quindi del dopo successo delle operazioni per la rotazione della Costa Concordia. La nave dovrà superare altre fasi, ora è stata raddrizzata, appoggiata su questo falso fondale. Poi però dovrà essere fatta galleggiare fuori dal porto dell'isola del Giglio. Nella primavera del 2014, dice il responsabile del progetto per la costa, Franco Porcellacchia, è gara tra Piombino, Palermo, Civitavecchia o un porto all'estero per smantellare il relitto. C'è sotto un po' di business, perché pensate, ieri sentivo notizie riguardo lo smantellamento, ci vorrà una squadra di almeno 300 operai, quindi potrebbe essere anche un modo per muovere un po' l'economia. Noi intanto facciamo un attimo di pausa, poi torneremo ancora insieme, sarà ancora On The Road. GRM Happy Radio On The Road. L'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo, e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. sono solo parole, no, qua ci sono anche i fatti, perché non sono solo parole, perché stavo leggendo di una notizia che riguarda l'Inter Calcio, dopo, diciamo, la bella, tra parentesi, perché non è stata per niente bella la partita, lo dico da juventino, è stata una partita così mediocre, mettiamola così, di domenica. Ebbene, ci sono stati dei cori razzisti e il giudice sportivo della Lega di Serie A ha chiuso per un turno il settore dello stadio Meazza dei tifosi dell'Inter a seguito dei cori razzisti contro i giocatori della Juve rivolti da parte del pubblico sabato scorso. Il secondo anello verde rimarrà chiuso al pubblico in Inter Fiorentina di giovedì 26 settembre. Poi è squalificato per due giornate Davide Pizzarro per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Montella, che se l'è cavata con una diffida, una ammenda di 5.000 euro. Questo è un po' il resoconto di quello che è successo domenica. Quella adottata nei confronti dei nerazzurri è la seconda applicazione dopo Juventus e Lazio di Supercoppa. Avete visto? Fare cretine i deficienti a fare cori razzisti, adesso non vedete la partita. Shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. And I say, why, yoy, what you gon' say? I'm a sucker when she pulls her game. I'm in love. Check my pulse, it's stupid. Somebody curb this Cupid. Wake me up or lose me. I messed it up, I messed it up. Whoa, turn me upside down. This girl, turn me inside out. This girl, what you want me to say? I messed it up, I messed it up. Cause I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. And I said, what, yeah, what you gon' say? I'm a sucker when she pulls her game. She wants to say, yeah, what you gon' do? Chiusa la parentesi dello scorso weekend calcistico, che ha vinto per l'appunto questi cori razzisti nei confronti dei giocatori della Juve. Succedono tutte le settimane queste cose, però fa bene a usare il pugno duro la Lega, e infatti ha squalificato la curva dell'Inter. Quindi giovedì, quando l'Inter affronterà in casa la Fiorentina, non ci sarà chiuso il secondo anello verde, quindi niente curva per i tifosi dell'Inter. Abbiamo chiuso questa parentesi per quanto riguarda il calcio Serie A, il calcio di casa nostra, anche se sempre di casa nostra parliamo, però stavolta di Champions League. Oggi parte ufficialmente l'avventura della Juve, delle squadre italiane. Sarà la Juve ad aprire i battenti la Juve in Champions League, assisterà anche il presidente Andrea Agnelli, che stamattina è arrivato a Copenaghen e seguirà la partita in tribuna. La squadra è uscita dall'albergo intorno alle ore 10 per svolgere un'ultima rifinitura in uno stadio che è vicino all'albergo. La temperatura al momento si aggira intorno ai 12 gradi, c'è il sole e tira anche un po' di vento. Queste sono anche le condizioni meteo che vedranno protagonista la Juve stasera, quindi in Danimarca. Per il successo bisogna risalire alla stagione 82-83, quando in Coppa dei Campioni i bianconeri spugnarono il campo di Eindhoven per 4-1. Bene, c'è un po' di turnover, infatti stasera la Juve in difesa non vedrà schierato Barzagli in mezzo a Ogbonna, mentre in attacco, coppia d'attacco assieme alla Pash Tevez, ci sarà Quagliarella, la formazione al completo: Buffon, Bonucci, Ogbonna, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Quagliarella e Tevez. Naturalmente incrociamo le dita sia per la Juve ma anche per le altre squadre italiane che poi da domani continueranno questa avventura in Champions League, e vedremo come andrà a finire, se supereremo i quarti. Ci siamo fermati là l'anno scorso. In search of storms, making up the pavement of less traveled roads, mining for treasure deep in my boat that I never found. When looking forever ends, try to find it in a bottle and came back again. High on a hash pipe of good intents, but it only brought me down. Tried institutions of the mind and soul, it only taught me what I should not know. Oh, and the answer, well, who would have guessed? Could be something as simple as this. Something as simple as this. Traveled to each ocean's end, saw seven wonders, trying to make some sense. Memorized the mantra Confucius said, but it only led me down. Tried absolution of the mind and soul, it only led me where I should not go. Oh, and the answer, well, how could I miss? Something as simple as this. Something as simple as this. I've been falling, crashing, breaking, all the while you stood me waiting for me, yeah. Liberation of my own free will, but it left me looking to get higher still. Oh, and the answer, well, who would have guessed? Could be something as simple as this. God knows how I could have missed something as simple as this. Something Simple as This, il nome di Jack Bax, un po' di country all'interno di On the Road. Beh, d'altronde GR, noi giriamo. Si sente. E si vede. C'è bello, bello, mi piace. E allora dicevo, tanto On the Road significa proprio questo, no? Girare un po' per la strada, andare a scoprire i grandi successi, anche i vecchi successi. Adesso però dobbiamo fermarci un attimino, proprio un attimo, un paio di minuti per la pubblicità. Poi ancora On the Road. CRM On the Road. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi only mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi sexy me. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi only mi mi. nominato Cerebro. Questo è mi. Non ho visto il video, però se è un po' come il primo. Non so se ricordate il primo, quello in auto. Lo ricordate, ho voglia se lo ricordate. Ebbene, pochi minuti, poi chiuderemo la prima ora insieme. Questa prima ora nel primo appuntamento della settimana di On The Road. C'è Roby D'Antoni con voi sino alle 17. Questo è CRM Happy Radio. E questi invece sono i Daft Punk. The Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Più ballati credo in quest'estate 2013, il disco dei Daft Punk, Sam Farrell in questo caso, e a Nile Rodgers la versione remix di Get Lucky. Siete a posto gli orologi, facciamo l'ora esatta e poi informazione. CRM On The Road Flashback. Come through. bel classico che siamo andati a ripescare indietro nel tempo. Questa volta appartiene a Chris Rea, questa è Josephine. 16:07, ho quasi paura, no? No, perché io la faccio diverse volte la settimana questa strada, quindi sto parlando di questa maledetta o benedetta galleria di Tremonzelli che torna a far parlare di sé, perché oggi un altro tir si è fermato intorno alle ore 13 all'interno del tunnel dell'A19 Palermo-Catania. Si tratta di un auto articolato, subito soccorso naturalmente agli uomini della Pulstrada che in questo momento stanno provvedendo a trainarlo fuori dalla galleria. L'avaria, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuta nel tratto in direzione Catania, quindi da Palermo per andare verso Catania, ed è la galleria a destra. Io la faccio diverse volte perché poi esco a Tremonzelli, quindi ci sono stati in questi giorni degli esperti che hanno monitorato, non hanno trovato niente, campi magnetici particolari, niente di che, però fatto sta che ancora un altro tir si è fermato. Vedremo. Sul fronte delle analisi l'ARPA Sicilia ha riposizionato due centraline per monitorare eventuali campi elettromagnetici precedentemente rimosse, ma niente da fare. Chi ci sarà all'interno di sta galleria? Ma vedremo. Questa ennesima analisi. Adesso c'è Mario Biondi. Always by my side. Stay so close to me, my sweetheart. Life is numb. Gonna change my mind, gonna change my words. Gonna feel your soul when I lose control. I wanna take your hands, I wanna take you there. I wanna fly away, going to deep space. Gonna fly. Symphonies. Your voice is coming from the stars. You are the seed of a bright star. You turn me on, my sweet baby. Stay so close to me, my sweetheart. Life is now. Gonna change my mind, gonna change my words. Gonna feel your soul. When I lose control, I wanna take your hands, I wanna take you there. Wanna fly away, go into deep space. Gonna fly, gonna fly, gonna fly, go into deep space. Gonna fly, gonna fly, go into deep space. Vuoi scherzare? Tony mi scrive gli alieni a Tremonzelli, però sai, ogni volta che io passo da quella galleria, prima di entrare, l'altro giorno ho parcheggiato, prima l'ho fatta a piedi, poi sono tornato indietro, ho ripreso la macchina. No, sto scherzando, in autostrada non si possono fare queste cose, però sai, passando sempre ti viene un attimino il magone, non si sa mai. Però io dico sempre che una delle cause è da attribuire al rampone in salita che c'è, prima di arrivare alla galleria c'è un tratto in salita, ecco perché probabilmente, dico, la mia è un'ipotesi, probabilmente i tir e gli autoarticolati arrivano là magari sotto sforzo e può succedere una cosa del genere, dico la mia è un'ipotesi, naturalmente gli addetti ai lavori stanno monitorando il tutto, vedremo un po' come andrà a finire. C'è un attimo di pubblicità, poi devo accontentare e salutare un bel po' di persone, intanto l'ho fatto con Tony approfittando del fatto che mi abbia scritto che all'interno della galleria ci sono gli alieni, magari c'è il fantasma Gasper, chi lo sa. On the Rub. loose, loose. TJR. Don't get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, but I do. They can't, they won't, they never will stop the party. They can't, they won't, they can't, they won't, they never will stop the party. I say y'all having a good time out there. Stop the party, che bello questo disco di Pitbull assieme a TJR, bello, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, se avete problemi con le lingue non vi preoccupate, perché se l'inglese, lo spagnolo e il tedesco non sono stati mai il voggi, potete comunicare, lavorare, viaggiare senza più barriere linguistiche, portando con voi 25 lingue diverse. E quanto promette Sigmo, un traduttore simultaneo al quale sta lavorando un startup di San Francisco. Grande poco più di un iPod 400, grazie al clip che si attacca al colletto della camicia o al bordo di una tasca, Sigmo promette di essere anche facilmente utilizzabile. Col primo pulsante pronunceremo la nostra frase nella nostra lingua e poi, premendo il secondo, dopo aver selezionato la lingua del nostro altoparlante del dispositivo, per farlo funzionare avremo semplicemente bisogno di uno smartphone iOS o Android al quale collegare il nostro Sigmo tramite Bluetooth o una sua relativa app e di una connessione internet. Ormai ce l'hanno un po' tutta la connessione internet, non avremo più problemi quando viaggeremo a tradurre, anche se poi ormai c'è il traduttore di Google, anche se poi non so se avete mai notato cosa si inventa quando tu fai le traduzioni, quando poi arrivano le frasi tradotte, mamma mia, non si capisce. Che dico, amico, un collega Gaetano mi ha richiesto pure questa nuova canzone di Max Pezzal e io gliela dedico. Ti ho incontrata ma tu non mi hai visto, per in macchina ma il mio cuore si è come bloccato, o era fermo prima e ha ripreso a battere, e io l'ho immaginato rivedere te, che effetto mi fa. Se sia stata colpa tua o mia, eravamo quel che tutti sognano, quell'amore che i cantanti cantano, tanto presagerato ed impossibile, con il petto che sembra esplodere, che non serve. ciò che è rotto ormai non si riparerà, però il cuore sai, me l'ha giurato, sa che un giorno tornerai, sì, dice presto tornerai. E saremo quel che tutti sognano, che sembra esagerato ed impossibile, con il petto che sembra esplodere, che non serve altro in più per vivere, che non c'è parola per descrivere, che ti sceglie e che non si fa scegliere. E saremo quel che tutti cercano, quell'amore che i cantanti cantano, tanto forte, potente, immenso, che sembra esagerato e irrealizzabile, fa quasi esplodere, senza il quale non si può più vivere, che potrebbe scomparire l'universo tranne noi. A proposito di universo, poi vi leggerò questa notizia che riguarda un satellite lanciato nel 2009, ha mappato la gravità terrestre con una precisione senza precedenti, infatti probabilmente ci cadrà in testa, vedremo dove arriverà e in quale zona arriverà, veramente sono curiosissimo di saperlo, no? Soprattutto mi spaventa il fatto di magari un giorno uscire e ritrovarti un satellite che ti arriva addosso, speriamo proprio di no. E allora che ora abbiamo fatto? Mamma mia che tardi, 16:25, ci siamo pappati quasi due orette, no, ce n'è ancora una mezz'oretta, quindi mettetevi comodi perché On The Road è appena iniziato nel primo giorno della settimana, oggi che è il martedì, il 17 di settembre. Certo, se ricordo bene i gusti musicali del mio ospite, questo non rientra nei suoi, vero Marco? Sì. No, andiamo più sul classico. Marco Cesati, ospite oggi all'interno di On The Road. Marco, come va? Benissimo, tu Roby? Io bene, bene. Qua in Sicilia okay. Splende il sole. A o meglio, sei a Milano o... Sì. Sei a Milano, no, perché sai, tu sei uno che gira, va in giro, cioè, vedo foto tue da tutto il mondo. Se io volessi conoscere una parte del mondo, basta guardare le foto di Marco Cesati o di Andrea Marinelli, io conosco un po' tutto il mondo. Perché ospite oggi Marco Cesati all'interno di On The Road? Perché oggi ufficialmente esce un altro tuo lavoro, un altro libro che si chiama I Guardiani della Soglia, giusto? Ne vogliamo parlare, Marco? Oggi esce in tutta Italia I Guardiani della Soglia, un romanzo thriller che parla di verità che riguardano tutti, perché parla del tempo, del destino e della vita dopo la vita. E quindi I Guardiani della Soglia sono una setta, un'organizzazione, praticamente sapete che ci sono persone che muoiono per alcuni minuti e poi tornano in vita. In gergo tecnico si dice near death experience, vicino all'esperienza della morte. E quando entrano tutti dicono innanzitutto che hanno visto un tunnel di luce, della luce in fondo al tunnel, chi passa questo tunnel vede e prova esperienze indescrivibili, fantastiche e meravigliose. Bene, nel mio libro queste persone che tornano in vita dopo queste breve morti di qualche minuto vengono uccise immediatamente un'altra volta da questi guardiani della sorte, perché non vogliono che si sappia, che il mondo sappia qual è quello che c'è, cos'è che ci aspetta dopo la morte. Quindi vogliono che regni continuamente un senso di caos e di perdizione, non un risveglio spirituale. Dentro questa traccia principale abbiamo il nostro protagonista, che si chiama Matteo Corsi, che assiste involontariamente a una di queste NDE e comincia a essere inseguito da questi guardiani della soglia. Il libro è ambientato in Australia, in Indonesia, nell'Asia Minore, ed è molto affascinante e ricco di colpi di scena. Quindi è un libro per imparare tante cose nuove che io ho trovato come ricercatore in studi veri di scienziati, di medici, di ricercatori, psichiatri, quindi cose assolutamente vere che sono veramente da lasciare a bocca aperta. Cioè, quindi Marco, tu mi confermi che sono storie realmente avvenute, fatti avvenuti? Sono fatti realmente avvenuti che io ho messo all'interno del mio romanzo e che poi a fine libro segnalo, guardate che a pagina 66 quel fatto che io ho descritto è realmente accaduto e lo tratto da questo libro di questo scienziato, oppure quest'altra cosa è successa e via dicendo. Quindi sono tutti fatti assolutamente veri. Io ricordo che Marco Cesati, a parte essere un mio grandissimo amico, è stato un mio ex capo villaggio in villaggi turistici, possiamo anche citarli, alla Val Tour, da là poi è nata questa tua passione per la scrittura, soprattutto per la scoperta di questi, come possiamo definirli, questi momenti di boio, ma manco so come definirli, Marco, perché... Sono esperienze metafisiche. Noi viviamo sempre nel materiale, ma sappiamo benissimo che esiste anche il razionale, esiste anche l'irrazionale, quindi dobbiamo cercare di vivere la nostra vita non solamente cercando di capire le cose, ma anche di sentire le cose, che poi sono la cosa più importante. Perché quando noi cerchiamo di capire ci arrovelliamo, cominciamo a fare 8.000 ragionamenti, alla fine non ne usciamo. Invece se le cose le sentiamo, le facciamo nostre, siamo subito convinti e andiamo sempre per la strada giusta. Quindi questo è fondamentale. Questo è I Guardiani della Soglia è un libro che illumina, perché parlando comunque di morte, di vita dopo la vita, è un grande inno alla vita invece, all'esistenza, alla preziosità della vita stessa. Tu nel tuo primo, scusa Marco, nel primo parlavi di coincidenze, se non sì, signore, prendo nel coincidenze bagno. E destino. Il ricercatore di emozioni è il primo libro. Lo stesso protagonista, che si chiama Matteo Corsi, di professione ricercatore di emozioni, lo troviamo anche in questo secondo libro. Nel mezzo ho scritto un saggio che si intitola Non siamo qui per caso, dove parlo sempre di coincidenze e di destino, il libero arbitrio, il caso, tutte cose che ci riguardano e che tante volte noi ci passiamo sopra in maniera molto leggera, che invece dovremmo invece soffermarci. Tu sei stato un aneddoto che c'è dimmi. No, no, no, vabbè, dicevo, tu sei stato in diverse trasmissioni televisive con Bonolis, certo. A parlare di queste di queste coincidenze. Io me ne ricordo una quando sei stata con la Panicucci, quella della signora con la statuetta, cioè se vera questa cosa, sì. Quella è bellissima, no, no, così la riassumo in due secondi, cioè una signora va da un prete e dice: io voglio trovare l'uomo della mia vita, e la signora gli ha dato questa statuetta, vediamo se la ricordo bene, gli ha dato questa statuetta. Non la ricordi bene, no. Hai già sbagliato. Ah no, com'era? Hai già sbagliato. Ricordamelo. Sembra che stai raccontando una barzelletta. Questo è un fatto realmente accaduto, sì. A Padova, una ragazza di nome Maria aveva comprato un libro sulla legge dell'attrazione che si chiamava The Secret, un libro famosissimo, e dopo averlo finito si convince, questa forza del pensiero positivo, voleva trovare l'uomo della sua vita, perché a 35 anni giustamente voleva sistemarsi, e quindi si convince con questo pensiero, comincia a conoscere un sacco di ragazzi, ma alla fine l'uomo della vita non lo incontra, non arriva. E allora disperata si reca dal proprio parroco, ecco. Il parroco ascolta questa storia della legge attrazione e porta la farina al suo sacco, nel senso che non è che dice: ma che stupidaggine, gli dice: no, continua con la legge dell'attrazione, solo che invece di farlo così, tu ti chiami Maria, per esempio, compri la statuetta di San Giuseppe, te la metti sul comodino, e per tre mesi, tutte le mattine, tutte le sere, ringrazi San Giuseppe dell'uomo che ti farà apparire, quindi una bella legge d'attrazione mirata proprio al nostro San Giuseppe. Perfetto. La convince, questa va a comprarsi la statuetta, se la mette sul comodino e per tre mesi lo sgarra un giorno, tutti i tre mesi: caro San Giuseppe, ti ringrazio, devozione, prego San Giuseppe, quindi vai in vacanza, metti la statuetta nella borsa, la tira fuori in albergo, la metti sul comodino un'altra volta, caro San Giuseppe. Tutte le mattine, tutte le sere, non sgarra un giorno. Passano tre mesi, incontro un sacco di ragazzi, ma niente. Non incontro la sua vita. Niente. Quella mattina a Padova, abitava al piano rialzato, era incazzata nera con il mondo, e soprattutto vede la statuetta, prendi la statuetta e dice: sai cosa ti faccio fare io? Ti faccio fare sto, ti faccio fare, lo scaraventa fuori dalla finestra, ok? Dopo 30 secondi, suona il campanello, va a aprire la porta, e alla porta trova un figo della Madonna con in mano la statuetta, che la guarda e gli dice: scusi, ma lo sa che momenti mi ammazza, la statuetta mi è passata a un centimetro dalla fronte? La morale è che dopo un anno e mezzo da questo evento i due sono sposati e hanno due figli. E quindi, okay? Quindi alla fine mai desistere, mai dire mai. Beh, le cose arrivano quando meno te aspetti. La coincidenza è sempre casuale, non è mai prevista. Tu devi dire: ah, che caso che mi è successo a me questa cosa. Quindi è un fatto che arriva quando tu meno te l'aspetti, quindi mai mollare. Perfetto. Il pensiero è fondamentale. E allora, dalle coincidenze alla morte e risurrezione, chiamiamola così tra parentesi, è il ritorno in vita nel I Guardiani della Soglia. Marco, io ti ringrazio per questa tua ospitata, certo non sarò il Bonolis della situazione, però prendete I Guardiani della Soglia, vi piacerà da impazzire. E fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi su Facebook oppure sul mio sito marcogiasati.it, io rispondo sempre a tutti, magari non subito, ma io rispondo sempre a tutti. Perfetto. Volete scrivermi le vostre coincidenze, scrivetemele, io le ascolto, vi darò anche le mie interpretazioni. Grazie a tutti, grazie a te Roby. Grazie Marco, e naturalmente buon proseguimento e in bocca, come potremmo dire, in bocca al lupo per questo nuovo tuo lavoro che si chiama I Guardiani della Soglia. Vi consiglio veramente, conoscendo Marco, Edizioni Sperling Kupfer, vi consiglio di prenderlo al più presto, perché esce oggi in libreria, giusto? È uscito stamattina. Stamattina, sì, sì. Perfetto, fresco fresco. Ciao Marco, un bacione. Fresco, fresco. Ciao Roby, grazie. Ciao. Un giorno, non so dirti quando, ci rincontreremo io e te. Tu per la strada, coi dischi, la spesa, io ancora ubriaco al caffè. Occhi negli occhi, diremo qualcosa sul tempo che va. Senza il coraggio di chiederci quanto è costata la felicità. Volte ci passo il mio tempo a invecchiare con te, vivere per le abitudini come due inglesi all'ora del tè. Pensare per un attimo di averti ancora, se avessimo una vita in più, chiamarti prima di dormire come allora, solo per te. Domande impaurite ci siamo scambiati io e te, quante risposte smarrite in un attimo senza capire perché. Un uomo e una donna non sanno pensare una vita a metà, ma quando finisce davvero l'amore ancora nessuno lo sa. Pensare per un attimo di averti ancora, se avessimo una vita in più, chiamarti prima di dormire come allora, solo per dirti una volta in più. I love you. Lo so che qua abbiamo trasformato l'Italia intera in un karaoke. Cesare Cremonini, I love you. In streaming crmpradio.it, là dove potete vederci, ascoltarci, fare qualsiasi altra cosa, inviare i vostri messaggi, richiedere la vostra musica, approfittatene. Io vi accontenterò sino alle 17, quindi manca pochissimo, quasi un quarto d'ora. Allora, prima parlavo di questo, questa possibilità che un satellite ci piova in testa. Bene, una corsa che ormai è arrivata alla capolinea, dopo più di 4 anni in orbita, il satellite GOCH, che è acronimo di Gravity Ocean Circulation Explorer, concluderà la sua missione. Messo a punto dall'Agenzia Spaziale Europea, è stato lanciato il 17 marzo del 2009 dalla base russa di Plesetsk con lo scopo di misurare il campo gravitazionale della Terra grazie ad alcuni sofisticati strumenti come un gradiometro. GOCH ha determinato l'altezza del geoide con una precisione di 1,2 cm a una risoluzione spazio di 100 km. Il satellite, però incontrollato, avrà l'impatto con la Terra. Il suo rientro nell'atmosfera sarà previsto tra il 15 e il 16 di ottobre. Molti scienziati si stanno interrogando su quale sarà il luogo dell'impatto, mentre ai curiosi, io dico una cosa, non resta che camminare con il naso all'insù, un zezzammai dovrebbe arrivare so coso in testa, dico, farebbe un po' di male, ma proprio poco poco. La Ferrari dei satelliti, come è stato definito per la potenza del suo motore, la forma aerodinamica e il suo colore rosso, rientrerà sulla Terra da un'altezza di circa 224 km. Si disintegrerà al contatto con l'atmosfera, alcuni detriti, secondo le previsioni, potrebbero cadere sul nostro pianeta, probabilmente finiranno in mare. Si tratta del primo rientro incontrollato di un satellite europeo da 25 anni a questa parte, in una zona d'impatto di circa 900 km quadrati. Quindi vedremo, naturalmente poi ci terranno informati. Tra il 15 e il 16 di ottobre io vi consiglio di uscire quantomeno con l'ombrello, sai, non si sa mai. Smile. my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Leggendo questa notizia che riguarda i Negrita, che non si definiscono per niente soltanto rockettari, c'è la svolta intima e acustica, infatti partirà il 17 ottobre da Rieti e andranno avanti sino a dicembre. Siamo sempre una band atipica nella musica italiana, dice il leader Poe. Sarà un concerto nei teatri, un tour nei teatri con le versioni dei loro successi in acustico nel doppio disco, si chiama Déjà Vu l'album. Ci sono però due inediti. Déjà Vu, la scaletta dei brani sono 26 in tutto, completamente risuonati in studio in una chiave del tutto inedita per la band. Beh, d'altronde, se poi voglio fare un tour nei teatri, credo sia opportuno che debbano rivisitare i loro grandi successi. Visto che abbiamo parlato dei Negrita, visto che abbiamo parlato dell'album Déjà Vu, visto che abbiamo parlato dei due inediti, uno dei due è proprio questo qua. Il primo è Anima Lieve, il secondo è quello che vi faccio ascoltare, che vi regalo. Si chiama La Tua Canzone. È un secolo che piove in questo buco di città, gonfia di rimpianti e di arroganza stupida. Anche tu in ostaggio di una lunga redenzione, ti offro il mio coraggio, ma questo viaggio tocca a te. È un biglietto per le stelle, quello lì davanti a te. Cambierai la pelle, ma resta speciale, non ti buttare via. questo inferno di ombre piatte, in questo vecchio Luna Park. Resta ribelle, non ti buttare via. E qualche dose di follia, come una mitraglia, sputa fuoco e poesia. L'arma è a doppio taglio, ti potrai ferire un po', non avrai un appiglio, ma stai sveglio, tocca a te. Per le stelle, quello lì davanti a te, cambierai la pelle, ma resta speciale, non ti buttare via. In questo inferno di ombre piatte, in questo vecchio Luna Park, resta ribelle, non ti buttare via. Non ti buttare via, avrai crescite senza sabbia e reti per le acrobazie. Resta ribelle, non ti buttare via. Mutamento, creo. Sono proprio nudo.